Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. L'Italia ha fatto sforzi considerevoli ma resta vulnerabile. Così la Commissione europea, che ha presentato poco fa a Bruxelles il rapporto sugli squilibri macroeconomici nell'ambito della supervisione delle politiche economiche. Il servizio di Beda Romano. È un quadro italiano ancora negativo, quello tratteggiato oggi dalla Commissione europea nel suo rapporto sugli squilibri macroeconomici nell'Unione. Parlando dell'Italia, l'esecutivo comunitario mette l'accento sull'elevato indebitamento dello Stato, sulla perdita di competitività dell'economia e soprattutto, vera novità, sulla fragilità del settore bancario. In questo contesto, la Commissione ammette che il rischio di contagio della crisi italiana al resto della zona euro è consistente nel caso di un peggioramento delle tensioni sui mercati finanziari. Per ora, l'establishment, così come i mercati finanziari, hanno reagito con una certa calma all'incertezza politica italiana. Ma più passa il tempo, più c'è il rischio che la crisi a Roma diventi sempre più preoccupante, sia per il suo impatto in Italia che per i suoi effetti in Europa. Crisi e corruzione, un'equazione chiarita nel rapporto annuale di Transparency International, che certifica il livello di corruzione in 176 paesi del mondo. Italia terzultima nell'Unione, peggio fanno solo Bulgaria e Grecia. Italia 72esima nel mondo, molto indietro rispetto alla Germania 13esima, alla Francia 22esima, alla Spagna 30esima. La correlazione tra corruzione e crisi è evidente, spiega Davide Del Monte, direttore di Transparency International Italia, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Se si guarda la cartina geografica dell'Europa e si mette un puntino sui paesi più colpiti proprio dalla crisi economica, si vede che la corrispondenza è totale. Come sede italiana di Transparency abbiamo messo in relazione il CPI con altri indicatori che sono molto di attualità, come per esempio gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo. Il grafico che si ottiene mettendo insieme questi due dati, quindi investimenti nell'educazione e nella ricerca e corruzione, è simile purtroppo a quello che riguarda, diciamo, le performance economiche, ovvero laddove gli stati sono più trasparenti, più aperti, quindi anche meno corrotti, quegli stessi stati sono quelli che spendono di più in educazione. E la corruzione è alimentata anche dall'opacità del sistema bancario. La crisi cipriota ce l'ha ricordato in maniera quanto mai lampante. Bene, ora un'iniziativa di 5 grandi stati europei cerca di fare qualcosa. Valeria De Rosa. Una santa alleanza firmata per combattere l'evasione, superando gli ostacoli burocratici e in qualche caso anche politici. I 5 sono Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Spagna. Hanno scritto assieme chiedendo a Bruxelles che le informazioni bancarie vengano scambiate automaticamente e obbligatoriamente e non solo, come avviene ora, sulla base di richieste singole o rogatorie. I 5 hanno voluto forzare la mano, visto che in sede comunitaria le discussioni sul tema sono ferme. Ma stante la situazione dominata dalla crisi e dall'inchiesta sui paradisi fiscali, le cancellerie devono aver pensato che non era più il caso di indugiare oltre. Per il progetto pilota che li coinvolge, al fine di scambiarsi dati, i 5 si ispirano al modello elaborato negli Stati Uniti, lo US Foreign Account Tax Compliance Act, un protocollo che permette di ottenere tutte le informazioni all'estero dei contribuenti americani e che Washington è riuscita a imporre alla Svizzera. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare un concorso promosso in vista delle prossime elezioni del 2014 da EPC, Centro per le Politiche Europee, e rivolto a tutti i giovani tra i 16 e i 30 anni. Perché il Parlamento europeo dovrebbe interessarmi? In cosa posso davvero fare la differenza nel percorso di integrazione? Come posso incidere sulle decisioni che riguardano il mio futuro? Queste sono alcune delle domande a cui ragazze e ragazzi sono invitati a rispondere attraverso testi, quadri, fumetti, video, fotografie e siti internet. In palio ci sono 20 posti per un viaggio a Bruxelles. Le iscrizioni scadono il 9 aprile 2013. Per informazioni www.epc.eu. Gianmarco Ferronato in regia, Gigi Donelli al microfono, Europa 24 torna domani alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.